L'iniziativa nasce dal bisogno di Riders Union di allargare il campo del discorso rispetto a una lotta che porta avanti da 3 anni, ovvero quella per un contratto degno per tutti i rider. Questa lotta naturalmente ha avuto tanti momenti, adesso è un momento davvero determinante perché purtroppo è entrato in vigore un contratto truffa firmato dall'associazione di categoria delle piattaforme Assodelivery e da UGL che toglie diritti ai rider. Però naturalmente la manifestazione ha anche e soprattutto un'idea più larga, cioè quella di coinvolgere, aprire un dialogo con altre realtà che come i rider negli anni si sono trovate ai margini invisibili di quelle che poi sono le scelte politiche e sociali all'interno del nostro paese, per invece cercare di prendere voce. Abbiamo visto in queste settimane insomma anche del dissenso crescere nel nostro paese rispetto comunque a una condizione di difficoltà, e su questo noi siamo convinti che vada fatta sentire anche una voce diversa che parli anche di alcuni temi come il welfare, come il reddito, e che sia importante farlo senza scindere la salute da invece la sopravvivenza economica. Proprio su questo sembra che viviamo in un contesto in cui c'è un ricatto, no, tra salute e lavoro. Molto spesso vediamo insomma le due cose essere poste in contrapposizione. Nel caso dei rider si va al lavoro, ma molto spesso non è riconosciuto anche il rischio che si corre. Abbiamo dovuto lottare per avere le mascherine, non c'è nessuna copertura in caso di malattia, e questa è un po' la situazione sui rider. Dall'altra vediamo chi invece resta a casa ma non ha nessun tipo di copertura economica per poterlo fare. Ecco, noi pensiamo che invece questo sia un fatto di scelte, non di obblighi, e su queste bisogna lavorare e cambiare. L'iniziativa parte da voi, ma appunto come già detto si è allargato, visto che ha aderito anche VAG 61, ci sono anche altre realtà? Certo, c'è insomma il mondo sindacale di base bolognese, c'è il mondo degli spazi sociali, c'è il mondo anche delle realtà associative e del lavoro, dai lavoratori precari della ristorazione a quelli dello spettacolo. Quindi, come dicevo, il tentativo naturalmente è quello di non confinare questa cosa a questa o quella realtà, ma quanto piuttosto dare voce soprattutto a soggetti sociali che sono esclusi in questo momento. Anche nella convocazione di questa manifestazione voi sottolineate che in realtà la pandemia ha aggravato situazioni già esistenti, quindi di conseguenza quello che serve è anche un cambio proprio strutturale, non solo contingente dettato dalla pandemia. Poi la retorica dell'emergenza l'abbiamo sentita da mesi e poteva essere anche giusta in un periodo iniziale, ma adesso perde anche di significato, perché delle scelte potevano essere fatte, sono state fatte delle altre scelte, e questo naturalmente ha lasciato alcuni scoperti. Alcuni problemi poi sono sistemici, parlo per i rider, la mancanza di un contratto adeguato è sistemico, è così da 3 anni. Ma questo vale per tante altre cose. Nel mondo della scuola, la mancanza di un corpo docente o di strutture scolastiche non è una novità, è qualcosa di atavico ormai all'interno del mondo della scuola. Il problema dei trasporti, ma si sapeva benissimo che ci sarebbe stato poi la difficoltà di garantire un trasporto in sicurezza. Il problema degli ammortizzatori sociali, ovvero che ormai sono limitate solo ad alcune categorie del lavoro, mentre tutta quella marea di lavori precari, pseudo autonomi, rimangono esclusi. Ma questo lo si sapeva da tempo, adesso naturalmente non ci vengono al pettine, e quindi noi quello che chiediamo non è 1-2 bonus, il ristoro, chiediamo di fare un ragionamento più largo e di ripensare davvero e non a parole il nostro modo di concepire la società in questo momento. Ricordiamo l'appuntamento. L'appuntamento è alle ore 18 in Piazza del Nettuno.